Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono 17.07, buona serata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, la giornata economico-finanziaria, una giornata che è stata particolarmente impegnativa soprattutto per Bruxelles, perché la Commissione Europea ha dato il via libera al piano anticrisi, un piano che è ben più corposo rispetto alle attese. Si parlava di un ammontare di risorse pari a 130 miliardi di euro, sono invece 200, tutti gli stati dovranno naturalmente concorrere alla riuscita di questa iniziativa congiunta, anche se poi il termine coordinamento fra gli stati lascia un po' a desiderare. Insomma, vedremo anche come si muoverà, quali saranno le linee guida di questo maxi intervento, un piano da 10 punti che cerca in qualche maniera di affrontare la terribile crisi finanziaria e a questo punto anche economica in corso. Lo sapete, anche ieri l'OCSE ha certificato la recessione per quello che riguarda l'economia globale. Per quello che riguarda la zona europea, si prevede una recessione che potrebbe durare almeno 2 anni e che sarà particolarmente intensa il prossimo anno. Di questo dunque parleremo, lo faremo però alle 18, perché oggi parleremo anche, oltre che di borsa, tra l'altro vedo un andamento piuttosto curioso. Oggi è stata una giornata abbastanza bruttina per i mercati finanziari, stamattina partenza in netto calo, poi peggioramento nel corso della giornata, molti dati economici dagli Stati Uniti non certo brillanti, e c'è stato un cambio di direzione perché adesso addirittura qualche piazza sta salendo in positivo. C'è il Nasdaq a Wall Street che guadagna l'1,31%, peraltro siamo alla vigilia di una festività, domani Wall Street sarà chiusa per il Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento, per cui probabilmente oggi gli operatori accelerano un po', probabilmente molte operazioni. Dow Jones -0,11%, quindi a Wall Street quadro contrastato, ed è contrastato in questo momento anche in Europa, perché c'è una discesa abbastanza netta di Parigi, -1,23%, è positiva Francoforte, +0,21%, è negativa Londra di quasi un punto percentuale, e anche Milano tenta di risalire la china, sta guadagnando adesso sull'S&P MIB lo 0,12%. Parleremo poi della social card presentata questa mattina dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, uno strumento di pagamento elettronico messo a disposizione dei ceti in particolare difficoltà in questo momento. Vedremo come funzionerà, c'è qualcuno che naturalmente ha già manifestato grosse perplessità su questa misura, insomma che tipo di valore potrà avere, che tipo di obiettivo potrà raggiungere una carta che mette a disposizione poco più di un euro al giorno per le famiglie che sono in difficoltà. Sempre meglio di niente, possiamo dire noi, senz'altro, però insomma questi commenti magari lasciamo a qualcun altro. Noi vi spiegheremo come funziona, cosa ha detto questa mattina il ministro Tremonti. Comunque è uno strumento che cercherà di alleviare un po' la situazione finanziaria molto precaria in cui si trovano almeno 1.300.000 persone nel nostro paese. E soprattutto poi faremo un focus su economia in Israele, dove è in corso e iniziata la nuova missione, dopo quella di un mese fa circa, un po' meno, in Vietnam, di Confindustria, ABI, ICE e Ministero dello Sviluppo Economico, per cui anche da lì insomma cercheremo di capire come le aziende italiane, anche andando ad esplorare altri mercati, cercano di aggredire la crisi economica e finanziaria in corso. Quindi tanti argomenti anche stasera. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, se vorrete come sempre esprimere le vostre considerazioni. Adesso le altre notizie in breve. A New York il petrolio aveva aperto con un rialzo rispetto alla chiusura di ieri di quasi $2 a $52,69 al barile. Poi sono stati diffusi i dati sulle scorte di greggio e benzina, scorte che sono aumentate ben oltre alle attese. Il petrolio è sceso a $50,80. La Banca Centrale della Cina ha annunciato un nuovo ribasso del tasso di interesse di 1,08 punti percentuali, che sarà operativo da domani. Si tratta dell'ennesimo tentativo da parte dell'autorità di rivitalizzare l'economia cinese, che sta risentendo della recessione nei paesi occidentali. All'inizio di novembre Pechino ha annunciato un piano di investimenti pubblici di quasi $6 miliardi per stimolare i consumi. Migliaia di operai licenziati nelle fabbriche del sud della Cina in seguito alla crisi economica internazionale hanno dato vita questa settimana a proteste piuttosto infuocate che in alcuni casi sono sfociate anche nella violenza. L'ultimo episodio riguarda Kaida Toys Corporation, che ha annunciato licenziamenti per 328 operai sugli 8.000 che occupa e ha anticipato altri licenziamenti per le prossime settimane. I lavoratori hanno riferito testimoni, si sono dati alla violenza bruciando auto e motociclette dei 1.000 poliziotti che si erano schierati a difesa degli uffici dell'azienda e che sono stati appunto messi sotto assedio. La polizia ha reagito, almeno 5 operai sono stati feriti, ai licenziati è stata offerta una liquidazione pari ad un mese di salario, cioè poco più di 100 euro. Il presidente americano neoeletto Barack Obama ha nominato oggi l'ex numero uno della Federal Reserve della Banca Centrale Americana Paul Volcker a capo del nuovo consiglio della Casa Bianca per la stabilizzazione dei mercati finanziari. Volcker è uno dei collaboratori più stretti di Obama e lo ha consigliato su tutte le questioni economiche e finanziarie durante la campagna elettorale, per cui si sta completando lo staff economico della nuova amministrazione Obama. Oggi però dagli Stati Uniti, a dispetto dello staff economico che sta completandosi, ci sono stati molti dati economici che invece sono stati piuttosto pessimi, ancora una volta, ormai non ci sorprende più niente, però soprattutto non ci sorprendono i dati che arrivano dal ramo immobiliare. Nel mese di ottobre le vendite di nuove case, negli Stati Uniti ovviamente, hanno segnato un ribasso del 5,3% dopo il rialzo dello 0,7% di settembre. Il valore, reso noto dal Dipartimento del Commercio americano, è peggiore delle previsioni, dato che gli analisti lo avevano stimato in un calo del 3%. È sceso anche l'altro indicatore sulla fiducia dei consumatori, questo dopo quello di ieri elaborato dal Conference Board, quello di oggi e quello invece elaborato dall'Università del Michigan, c'è una discesa a 55,3 punti dai 57,6 punti di ottobre. Anche in questo caso gli analisti avevano previsto un valore finale a 57,9 punti, per cui addirittura un rialzo, invece il dato è sceso, quindi dato anche in questo caso peggiore delle attese. Migliore delle attese invece il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione, che sono calate nella settimana del 22 novembre di 14.000 unità ad un totale di 529.000. Le attese avevano indicato invece 537.000 richieste. Un dato invece molto importante riguarda i redditi e soprattutto i consumi, anche all'indomani del maxi piano di sostegno al settore del credito al consumo varato ieri dal segretario al tesoro uscente Paulson e dalla Federal Reserve, un piano da 800 miliardi di dollari. I redditi dei lavoratori americani sono aumentati in ottobre dello 0,3%, mentre le spese per i consumi, e qua la nota dolente, sono calate di un punto percentuale. Entrambi i dati però sono migliori delle attese degli analisti, che avevano previsto per i redditi un incremento dello 0,1% e un calo dell'1,2% per le spese. L'ultimo dato in questo nuovo, quello che ormai definiamo ogni giorno bollettino di guerra, riguarda gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti, quei beni che si comprano a rate, magari con finanziamenti, elettrodomestici, televisori ed altro. In ottobre sono diminuiti del 6,2% rispetto a settembre, accusando il terzo calo mensile consecutivo e la peggior flessione dall'ottobre di 2 anni fa. Il dato è inoltre peggiore appunto delle attese degli analisti, che puntavano in media ad un calo del 2,5%, invece il calo è stato del 6,2%. Un'indicazione interessante invece arriva oggi dalla Germania, dove abbiamo una statistica piuttosto positiva relativa all'inflazione tedesca, perché l'indice dei prezzi al consumo a novembre è sceso dello 0,5% su base congiunturale, è la lettura preliminare diffusa dall'Ufficio Federale di Statistica, ma emerge il significativo calo dell'inflazione su base annua, per cui la Banca Centrale Europea a questo punto, per ridurre i tassi di interesse, non ha più alcuna scusa. A novembre l'indice dei prezzi al consumo infatti è salito dell'1,4% contro il 2,4% di ottobre. Anticipiamo invece i termini del piano anticrisi varato dalla Commissione Europea, che poi commenteremo ampiamente come già indicato più tardi. La Commissione Europea appunto oggi ha dato il via libera alle sue proposte per affrontare la crisi economica conseguente a quella finanziaria. Si tratta di un pacchetto da 200 miliardi di euro, una risposta senza precedenti ad una crisi senza precedenti, ha detto il Presidente della Commissione Europea Barroso, che ha parlato di un'entità pari all'1,5% del PIL dell'Unione Europea. Di questi 200 miliardi, ha spiegato, l'1,2% 100, cioè 170 miliardi, verrà messo a disposizione dagli Stati membri, mentre la parte restante, pari allo 0,3%, verrà dal bilancio dell'Unione Europea. Barroso ha parlato di un piano potente, sistematico e pragmatico, ha spiegato che si articola in 10 punti, fra i quali anche lo sviluppo delle tecnologie pulite per le auto e per il settore delle costruzioni. La social card presentata invece in Italia costerà a regime 450 milioni di euro l'anno e riguarderà 1.300.000 soggetti, lo ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti illustrando oggi a Palazzo Chigi quella che si chiama la quarta per gli acquisti. Tremonti auspica che i negozi, una volta che questa carta verrà utilizzata, aggiungeranno uno sconto del 5%, uno sconto che speriamo possa salire. Famiglie sempre più in difficoltà con il portafoglio vuoto già alla seconda terza settimana e la sola alternativa di tirare la cinghia di fronte ad una crisi che viene vista lunga, destinata a peggiorare e a mordere anche per i prossimi 2 anni, questo è quanto dice un sondaggio realizzato dalla Confesercenti SVG. Lufthansa lancerà da domani il nuovo marchio Lufthansa Italia. All'inizio del 2009 costituirà una propria compagnia aerea italiana con questo marchio. Lo ha annunciato la compagnia aerea tedesca in una conferenza stampa del presidente Mayruber e del presidente di SEA, Giuseppe Bonomi, che ascoltiamo al microfono di Enrico Paglierini. Oggi il quadro è certamente ancora confuso, ma le idee del gestore aeroportuale, mi permetto di dire, sono sufficientemente chiare. Quanto annunciato oggi è semplicemente il primo concreto risultato di un intenso lavoro che stiamo facendo noi e Lufthansa insieme da oltre un anno. È un inizio concreto perché prevede un'operatività di Lufthansa dai primi di febbraio sull'aeroporto di Malpensa con nuovi aeromobili qui posizionati. Un fatto senza precedenti nella storia dell'aviazione civile europea e anche un evento senza precedenti nella storia di Lufthansa, cioè Lufthansa costituirà una nuova compagnia aerea che si chiamerà Lufthansa Italia. Per quanto ci riguarda, è evidente che noi insieme a Lufthansa abbiamo delineato un obiettivo strategico di ben più ampia portata che abbiamo inserito in modo trasparente nel nostro nuovo piano industriale che ci traguarderà al 2015, ovvero l'inserimento di Malpensa nel sistema multi-hub di Lufthansa. È in calo a novembre la fiducia delle imprese manifatturiere, che evidenziano anche un peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Lo riferisce l'ISAE nella consueta inchiesta mensile. L'indice elaborato dall'ISAE è arrivato ai minimi dall'agosto del 1993. Ma a proposito di imprese italiane, ha preso il via oggi la missione imprenditoriale in Israele di Confindustria, ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, ABI, l'Associazione delle Banche Italiane e Governo. E per chi si lamenta per la sua assenza, andiamo subito a collegarci con Sebastiano Barisoni, oggi a Tel Aviv. Sebastiano, buonasera. Sì, Deborah, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. E nonostante il dato che ricordavate sul calo della fiducia delle imprese italiane, sono oltre 100 le imprese che oggi hanno iniziato operativamente la missione italiana in Israele, 300 partecipanti, 14 associazioni, 100 imprese, dicevamo, i 6 principali gruppi bancari italiani, per quelli che saranno alla fine circa 1000 incontri B2B, ossia business to business, tra imprenditori israeliani e imprenditori italiani. Israele è un paese che vanta un interessante scambio commerciale con scambio commerciale con l'Italia. Siamo il quinto paese in ordine di importanza. E allora ascoltiamo questa scheda per capire i numeri e anche come va il nostro export nei confronti di Israele. Anticipo subito che i dati sono più che buoni. La crisi globale non ferma le imprese italiane. E così, a meno di un mese di distanza dalla missione in Vietnam, le aziende tricolore sono sbarcate oggi a Tel Aviv. L'obiettivo? Rendere sempre più forte la partnership economica tra il nostro paese e Israele. Un'alleanza che già dà i suoi frutti, considerato che nel 2007 siamo stati il quinto fornitore di Israele con una quota pari al 4,7% del totale delle importazioni. In crescita costante anche gli investimenti, che si attestano a circa 12,3 milioni di euro a fronte dei 10,9 milioni dello scorso anno. L'interesse delle nostre imprese per Israele è dunque forte e i dati relativi alla crescita di quello che è considerato uno dei paesi più avanzati del Medio Oriente non fanno che dimostrarne le grandi potenzialità. L'economia israeliana ha registrato infatti negli ultimi anni tassi di crescita superiori al 5%. Soltanto nei primi tre mesi del 2008 la produzione industriale è salita di oltre il 6%, l'esportazione di beni e servizi del 12,6%, mentre le esportazioni di prodotti software ed informatici addirittura del 33% rispetto allo stesso periodo 2007. Nell'ultimo anno l'interscambio commerciale tra Italia e Israele ha raggiunto i 2 miliardi e 800 milioni di euro. Con un surplus a nostro favore superiore a 800 milioni. In particolare, l'export è cresciuto del 10% a 1 miliardo e 800 milioni e l'import si è attestato a 1 miliardo, più 19%. Ma cosa esportiamo principalmente in Israele? Circa un terzo del totale è costituito da macchine e apparecchi meccanici, seguiti da prodotti chimici e metalli di base. Sul fronte dell'import, invece, predominano prodotti chimici, in plastica, macchinari e attrezzature elettriche. E proprio allo scopo di promuovere il flusso di capitali esteri, il governo israeliano non solo ha abbassato il numero di restrizioni presenti sul mercato, ma ha lanciato un piano di incentivi per le imprese straniere i cui investimenti rispondano a particolari requisiti legati alla localizzazione al settore coinvolto. Un attivo commerciale quindi di 800 milioni di euro l'anno scorso, export in crescita anche quest'anno, come sentivamo, più 10%, ma in aumento anche l'export da Israele verso l'Italia, più 19%. Vale la pena ricordare che questo paese è il secondo paese al mondo quanto a investimenti nella ricerca scientifica, ma non solo, ed è il primo al mondo nel rapporto tra ingegneri e popolazione. Di questo abbiamo parlato con il sottosegretario Urso, che ha la delega ai rapporti commerciali, quindi alla delega al commercio con l'estero, e siamo partiti proprio da dal dato più debole nel rapporto tra Israele e Italia, ossia gli investimenti italiani in Israele e israeliani in Italia sono ancora a un livello da alcuni giudicato non soddisfacente. Questa missione di sistema, a cui partecipano oltre 100 imprese italiane che incontreranno quasi 300 imprese israeliane, serve appunto a questo, a far conoscere e cooperare le nostre piccole e medie imprese con le loro piccole e medie imprese. Ci sono tanti settori su cui si può farlo, dall'agricoltura e l'agroindustria alle infrastrutture, all'high-tech, al settore delle biotecnologie e delle nanotecnologie. Loro producono, Israele è leader nel mondo nel campo della ricerca, ma hanno difficoltà a trasferire queste ricerche, i loro brevetti, e a farle diventare elemento di stimolo del sistema produttivo. Noi invece facciamo poca ricerca, ma siamo campioni nel mondo nella capacità di utilizzare questa ricerca per farla diventare elementi propulsivi del sistema industriale. I due paesi insieme possono sviluppare una partnership assolutamente complementare e fruttuosa per entrambi, soprattutto in questo momento di grave recessione economica internazionale. Esistono comunque già degli accordi e di progetti di ricerca tra Italia e Israele? Sulla base di un accordo firmato nell'anno 2000 si sono sviluppati già 40 progetti comuni di ricerca e scientifica, coinvolgendo anche le università e i parchi industriali, e un altro progetto di ricerca, accordo di ricerca nel campo specifico dell'agroindustria, e in via di sottoscrizione. Questo è estremamente importante perché la ricerca comune è il presupposto, rappresenta le fondamenta di una comune partnership industriale, quello che noi auspichiamo avvenga proprio sulla base di questa missione. Sempre per quello che riguarda il rapporto tra Italia e Israele in termini di settore e struttura d'impresa, il 4% circa del PIL israeliano è l'ammontare di quanto investono in ricerca contro un rapporto intorno all'1% in Italia. Ora, dire che noi siamo bravi a applicare non può bastare, occorre anche aumentare la quota italiana nell'investimento. Secondo lei, proprio in questo momento di recessione e crisi, come chiedono le imprese, sarebbe anche il caso di detassare gli utili reinvestiti in innovazione e ricerca nel nostro paese? Credo che noi dovremmo fare tutto il possibile proprio in questa fase di recessione economica, che significa anche necessariamente ristrutturazione, talvolta riconversione industriale. Sarà un anno di guado mentre il fiume è in tempesta, puntando tutto il possibile su quelle imprese che possono competere a livello internazionale, quindi su quelle 200.000 imprese esportatrici e su quelle 30.000 imprese investitrici, che è la forza vera, reale, produttiva del nostro paese, magari con provvedimenti fiscali per favorire le imprese esportatrici e quelle che investono di più in innovazione e ricerca. Una recente ricerca ha dimostrato che le imprese italiane che investono all'estero, che sono internazionalizzate, sono anche quelle che hanno investito di più in Italia proprio in ricerca e innovazione e hanno aumentato l'occupazione specializzata nella casa madre in Italia. Quindi internazionalizzazione e investimenti in ricerca e innovazione procedono di pari passo. Io mi auguro che nelle scelte complessive del governo ci sia spazio per incentivare appunto da una parte l'innovazione, dall'altra l'internazionalizzazione. Torniamo anche alle partnership possibili tra Italia e Israele. Lei in quali settori le individua, soprattutto quelle, diciamo, più a breve termine? Ma si è parlato oggi, nella prima giornata dei lavori, anche delle partnership a medio e lungo termine, penso al settore dell'energia nucleare. Innanzitutto nel settore primario, agricoltura e agroindustria, perché Israele, per sopravvivere, ha sviluppato una ricerca che è leader nel mondo proprio nel campo dell'agricoltura, si coltiva anche il deserto, e nel campo agroindustriale. Noi abbiamo proprio nel settore agroindustriale la leadership per la qualità e la commercializzazione dei nostri prodotti nel mondo, quindi si può e si deve fare di più in questo campo per creare una partnership che diventi davvero invincibile a livello globale. E poi il settore delle infrastrutture, noi investiamo molto in infrastrutture, il governo ha appena varato un piano in cui destina 16,6 miliardi di euro nel settore delle infrastrutture, altrettanto sta facendo Israele, ha un programma colossale di investimenti nel settore infrastrutturale da qui al 2020, sia in quello ferroviario che per quanto riguarda le metropolitane in città, il settore autostradale. Io aggiungerei tutto il settore dell'high tech, delle biotecnologie, delle nanotecnologie, appunto, in cui vi sono imprese italiane che in nicchie di mercato sono particolarmente forti a livello globale, e certamente la cooperazione con quelle israeliane può essere assolutamente decisiva. Questo per quello che riguarda anche le partnership future, i settori di interesse, appunto, come già ricordava il sottosegretario Urso, la missione italiana si articola su questi quattro settori strategici: l'high tech, dove per high tech si intende la meccanica, la sicurezza, la salute, le infrastrutture, l'agroindustria e i beni di consumo, ossia abbigliamento, il design e l'arredamento. Tra l'altro le 100 imprese italiane incontreranno più o meno 330 imprenditori e imprese, quindi israeliane. Struttura di impresa, quella israeliana, che è simile al modello italiano, nel senso che si basa soprattutto sulle piccole e medie imprese, e questa similitudine è stata messa in evidenza dal vicepresidente di Confindustria, con tra l'altro che ricopre anche il ruolo di presidente della piccola industria e Confindustria, Giuseppe Morandini. Non solo i due sistemi produttivi sono molto simili, perché entrambi sono basati sulla piccola e media impresa. Quello che è importante è la complementarità fra i due sistemi. Il sistema israeliano è molto forte in fase di progettazione, ideazione e ricerca. Il comparto italiano, la piccola e media impresa italiana, è molto forte nel trasferimento dei brevetti in produzione, nella generazione di nuovi prodotti, nella loro commercializzazione. Ci sono quattro incontri tematici che abbiamo visto che si consumeranno in questi giorni. Una scelta dovuta a che cosa? Alla necessità di convogliare su quattro settori gli incontri B2B, o al fatto che, diciamo, quelli siano i campi che coprono la maggior parte dell'interesse per le imprese italiane in Israele e viceversa? No, questi sono i settori di grande prevalenza. Stiamo parlando di infrastrutture, stiamo parlando di alimentare, stiamo parlando dell'high tech, stiamo parlando dei beni di consumo. È evidente che qui è rappresentato tutto il ventaglio di offerte che la piccola industria può dare. L'importanza di questo tipo di incontri, al di là dei 1000 B2B che si svolgeranno domani con le controparti israeliane, è a livello istituzionale. Qui in questa missione siamo accompagnati dal Presidente della Repubblica, siamo accompagnati dal Ministro Scajola, dal Sottosegretario Urso, quindi c'è la possibilità per tutti noi imprenditori di avere rapporti ad alti livelli anche con le istituzioni di questo Paese. A questo proposito, Confindustria è reduce assieme a Abi e Alice della missione in Vietnam. Ci sono state missioni importanti nel 2007 e nel 2006. Ecco, il follow-up, ossia le ricadute di queste missioni, da quello che voi riuscite a vedere, è una ricaduta che ha poi una conseguenza concreta nell'aumentare l'interscambio commerciale tra i paesi che vengono visitati, quindi che sono oggetto delle missioni? Il fatto che questa sia la 23esima missione del sistema Confindustria ICE-ABI credo la dica lunga sulla funzionalità e sulle ricadute che questo modello ha, soprattutto per la piccola impresa italiana. E in ogni caso, in ogni paese dove noi siamo stati presenti con questa missione di sistema, gli incrementi commerciali fra l'Italia e il paese visitato sono sempre incrementati. Un'ultima domanda, che cosa chiedono le piccole e medie imprese? Perché lo sforzo nell'andare in mercati nuovi, distanti o non distanti, è uno sforzo comunque superiore in percentuale, in proporzione rispetto allo sforzo che deve reggere la grande impresa. Che cosa chiedete e quale rete state predisponendo? Ma per essere forti in trasferta, per prima cosa bisogna essere forti in casa. Quindi la piccola impresa ha le idee molto chiare su cosa sia necessario in questo momento difficile. Ci siamo concentrati su due priorità. Una è senz'altro un nuovo rapporto e ancora più costruttivo col mondo bancario. La seconda, in tema di fiscalità, poter contare su una fiscalità che finalmente promuova la crescita delle nostre imprese. Per concludere, visto che citava le banche, venendo a un fronte invece molto italiano e molto poco israeliano, continuano le segnalazioni degli associati, dei piccoli imprenditori, di una difficoltà nell'ottenere credito o nel rinegoziare il credito con le banche, o la situazione sta lentamente migliorando? Ma proprio ieri come Confindustria abbiamo dato l'avvio a un sito dove si possono raccogliere tutte le anomalie che si riscontrano sul territorio nel rapporto impresa-Confindustria. È importante per noi avere un quadro reale di momenti e situazioni di difficoltà in modo da poterlo fare presente soprattutto all'ABI. E come già anticipavamo, domani vi sarà il punto più alto di questa missione, perché saranno presenti per l'Italia il ministro all'attività produttive Claudio Scajola, assieme al presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e soprattutto al presidente della Repubblica Napolitano, che terrà un incontro assieme a Simone Peres. L'altro soggetto di questa missione è rappresentato dal mondo bancario e finanziario. Come ne sentiamo dalle parole di Morandini, le missioni ormai da anni italiane si articolano tra parte imprenditoriale, Confindustria, parte diplomatica, ICE e Farnesina, e poi la parte che riguarda il mondo delle banche. Ne abbiamo parlato con Domenico Santececca, che appunto rappresenta l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, in questa missione in Israele, per capire quale può essere il ruolo del sistema bancario a supporto delle imprese italiane in Israele. Qui partiamo da dal presupposto che lo sviluppo del nostro paese non può prescindere dall'internazionalizzazione del suo sistema industriale, produttivo e finanziario. Per questo motivo le banche, insomma, sia come imprese e se stesse, ma soprattutto a supporto dell'attività delle imprese, da tempo, insomma, sono molto impegnate. Con riferimento ad Israele, in questa missione ci sono 6 banche che rappresentano oltre il 70% degli asset del sistema, non sono numericamente molte, ma sono molto qualificate. Riteniamo che lo sviluppo delle relazioni produttive fra le imprese italiane e le imprese straniere abbia un alto potenziale, perché sono fra loro complementari. Le imprese israeliane fanno ricerca, progettazione, innovazione, e le imprese italiane sono molto brave a applicare, diciamo così, i risultati della ricerca. Per quello che riguarda l'aiuto che il mondo bancario può dare, è un periodo in cui le banche hanno difficoltà a erogare o mantenere le linee di credito anche, diciamo, sulle operazioni più normali in Italia. Ritiene che sia pensabile comunque uno sforzo bancario per quello che riguarda gli investimenti fuori dall'Italia, nel caso specifico nel bacino mediterraneo? Il periodo certamente non è facile, però bisogna ricordare e sottolineare che le banche italiane in questa situazione, come dire, si sono presentate e si posizionano in una situazione meno critica rispetto agli altri paesi, e però se vuole il momento di difficoltà ci impone di essere più proattivi e di sostenere di più le nostre imprese. È proprio in questi momenti che bisogna farlo. Io credo che le banche italiane abbiano e siano nelle condizioni per poterlo fare. Deborah, qui da Tel Aviv è tutto, a voi la linea e poi noi ci risentiremo domani per la seconda parte della missione italiana in Israele. Grazie, grazie Sebastiano. Allora torneremo a sentirci appunto nelle prossime ore per sentire come la missione prosegue. Eccoci ritrovati in diretta, volevo subito rispondere a tutti quegli ascoltatori, ne vedo parecchi che ci stanno chiedendo qual è il nome del sito di Confindustria per lamentarsi delle banche, non c'è un nome particolare, è proprio il sito di Confindustria, www.confindustria.it, in home page trovate sulla destra due link, due modi per collegarvi appunto alla, al tema crisi finanziaria e accesso al credito, e sotto c'è anche un indirizzo di posta elettronica, filo diretto credito, @confindustria.it, al quale potete evidentemente segnalare la vostra situazione di disagio, se siete degli imprenditori che fanno fatica in questo momento a ad ottenere credito e finanziamento da parte della vostra banca, per cui questa è proprio l'home page, la pagina di Confindustria, il sito di Confindustria. Adesso ci fermiamo, non ci fermiamo, anzi andiamo avanti con il racconto della giornata di borsa. Eleonora Micheli, Radio Cuore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata che ha cambiato completamente faccia, soprattutto negli ultimissimi minuti. Esatto, infatti i mercati per la verità erano partiti positivi, ma subito hanno virato al ribasso e sono stati negativi per la maggior parte della seduta. E anche, anche pesanti, insomma, sono arrivati a perdere 2,5 punti, qualcosa del genere, anche 3 punti se non sbaglio. Assolutamente sì, verso metà seduta nel primo pomeriggio le borse sembravano orientate con decisione verso il basso. E tra l'altro comunque ad esempio Parigi ha chiuso in calo dell'1,24%, non è riuscita a riprendersi pur arginando le perdite, e questo peraltro nonostante che i dati americani macroeconomici siano stati abbastanza deludenti. D'altra parte sul finale Wall Street è migliorata, probabilmente perché domani rimarrà chiusa per la festività del ringraziamento, e poi ha trovato supporto nelle dichiarazioni di Obama, che ha detto che appunto creerà un comitato proprio per combattere la crisi macroeconomica. Un comitato che sarà guidato dall'ex capo della Federal Reserve Paul Volcker. Migliori titoli a Piazza Affari, con Milano che chiude con un +0,6% sull'S&P MIB, lo 0,47% sul MIB, Tel Prismian +5,70%, Mediobanca +4,53%, Geox +4,14%, Italcementi +4%. Cominciamo con il commento sulla seduta di Italcementi, Eleonora. Sì, Italcementi è andata molto bene e peraltro era uno dei miglior titoli anche quando la borsa scendeva, e questo perché appunto le azioni dell'azienda sono state premiate all'indomani della firma definitiva al contratto in Libia per la creazione di un cementificio. Saranno investiti fino a 750 milioni di dollari, però un progetto molto importante ovviamente, quindi la borsa lo apprezza. Stiamo commentando la seduta di borsa e qualche ascoltatore contesta, ma insomma, quindi oggi, quindi questo cambio di direzione della seduta è merito di Obama, ma dai, ci scrive qualcuno. Allora, non è che sia un nostro commento, ci siamo limitati con Eleonora Micheli a testimoniare quello che in realtà poi è accaduto. Non appena Obama ha presentato un nuovo componente del suo imponente staff economico ed è una personalità assolutamente autorevole, Paul Volcker, che gestirà la crisi finanziaria, presiderà il comitato proprio deputato a gestire la crisi finanziaria, la seduta ha cambiato faccia. Se poi le motivo vero di questo cambio di direzione sia questo non lo sappiamo, però abbiamo registrato questa situazione. Eleonora, andiamo avanti con i commenti sui temi di borsa. L'Espresso +3,95, Telecom +3,92, ha recuperato bene questo euro, lo sta tenendo Telecom da qualche seduta. Esatto, +3,92, tra l'altro sono aumentati anche i volumi, 104 milioni passati di mano. Si avvicina la data della presentazione del piano industriale che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 2 dicembre. Ci si aspettano novità, intanto proprio il Sole 24 Ore di quest'oggi riferisce che il comitato esecutivo di lunedì scorso potrebbe aver affrontato due tematiche, una sulla valorizzazione di Team Brasile e l'altra sulla valorizzazione della rete. Qualche novità potrebbe emergere appunto dalla presentazione del piano industriale, anche se in verità questi sono temi che avranno più ampio respiro. Andiamo a seguire nella classifica dei migliori: Mediolanum più 3,92, l'Ottomatica più 3,36, STM più 3,13%. Ci sono anche notizie su STM, se non vado errata. Esatto, oggi infatti le autorità dell'Unione Europea hanno dato il via libera alla joint venture che la società ha siglato con Ericsson, e quindi i titoli sono stati premiati, è stato festeggiato appunto questo accordo. Fiat più 3%. Fiat in verità ha fatto peggio rispetto al comparto auto. Il sottoindice Eurostox dell'auto è salito del 9,85%, sono state gettonate tutte le azioni delle case auto europee, e questo perché si scommette che su un piano più favorevole alle case auto da parte dell'Unione Europea in tema di emissioni, quindi questo ha facilitato ovviamente anche Fiat. Era uno dei migliori titoli sin dalle prime battute, anzi in mattinata è arrivato a segnare anche un progresso di oltre il 4%. Eleonora, ti ringrazio per essere stata con noi. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Do io i peggiori della seduta. Ancora in difficoltà gli utilities per la prospettiva di taglio delle tariffe già indicata ieri dal governo. Terna meno 3,70. Abbiamo avuto un calo anche di UbiBanca meno 2,89. Tenaris meno 2,43. A2A meno 1,48. Saipem meno 1,46. Enel meno 1 punto. Finmeccanica in ribasso di 1 punto. Meno 0,8% per Luxottica. Meno 0,5% per il Banco Popolare. Eni meno 0,49%, e qui si esaurisce la lista dei titoli negativi. Ci fermiamo, andiamo alla social card. La cosiddetta social card che è stata presentata questa mattina, la carta per gli acquisti destinata ai ceti più disagiati, a redditi fino a 6.000 euro. Le caratteristiche appunto della carta sono state illustrate dal ministro per l'economia Giulio Tremonti, che ha anche detto, oltre all'ammontare previsto in ogni carta, i negozi speriamo aggiungano uno sconto di almeno il 5%, nella speranza che questa percentuale possa anche salire. Tremonti ha spiegato che questi acquisti vengono considerati come una spesa addizionale che quindi altrimenti non sarebbe stata fatta. Sentiamo le spiegazioni sul funzionamento di questo strumento di pagamento del ministro Tremonti. È una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel paese. La differenza è che mentre le altre carte di pagamento le paga chi le usa, qui le spese sono addebitate allo Stato. Vale 40 euro al mese. Per le domande fatte, per le pratiche definite entro il 31 di dicembre, la ricarica retroattiva ed è fatta per 120 euro, comprendendo i mesi di ottobre, novembre e dicembre. A regime sarà di 40 euro più gli sconti che saranno convenzionati con le catene commerciali. La carta va agli anziani che hanno più di 65 anni e alle famiglie che hanno bambini piccoli. È modulata in funzione dell'ISEE, ho detto, quindi devi avere una sola casa, una sola auto, un solo. Se vai oltre esci dall'ISEE e esci dalla carta. La social card, anche per gli ascoltatori che ce lo chiedono, costerà a regime 450 milioni di euro l'anno, riguarderà 1.300.000 soggetti. Come si potrà ottenerla? Sentiamo anche in questo caso le spiegazioni del ministro Tremonti sulla procedura per poterla utilizzare. La procedura è attraverso le poste, è operata dalle poste. Le nostre banche dati hanno dato alle poste, aprendo gli archivi, le indicazioni di platea, di massa. Noi riteniamo che vada a più di un 1.300.000 soggetti. Questo è quello che sappiamo noi, che pensiamo noi. Può esserci che c'è uno che riceve dai nostri archivi attraverso le poste il documento che lo sollecita ad andare alle poste a prendere la carta. Può esserci uno che lo riceve a diritto, uno che lo riceve e si rende conto, conoscendo la sua specifica posizione, che non quadra con i requisiti. Può esserci uno che non riceve, ma che ritenendo di avere i requisiti va alle poste. Uno strumento così nuovo e così articolato non può, noi diamo per scontato, non può partire da subito funzionando a regime oliato al 100%. Confidiamo molto, oltre che sulle poste, sull'INPS e sulle strutture pubbliche, confidiamo moltissimo sulla struttura civile, sulla società civile, sui CAF, sui patronati, sulle organizzazioni del volontariato. Saremo aperti ad allargare la rete a tutti i soggetti che sono interessati a rendere un servizio a chi ha bisogno nel fargli avere la carta acquisti. Una carta acquisti che è anonima ed è stata varata tenendo conto anche di altre esperienze similari fatte in Europa. Noi tra l'altro della social card, ma anche del bonus bebè, di altre iniziative, di tutte quelle che saranno comprese nel pacchetto anticrisi che il governo varerà venerdì, ne parleremo martedì prossimo a Salvadanaio, per cui cercheremo anche di capire meglio il funzionamento, tutte le modalità per poterla ottenere. E intanto la carta sociale si rivolge anche agli ultimi, si rivolge agli ultimi degli ultimi, all'area del bisogno assoluto che solitamente non è rappresentata ai tavoli con le parti sociali di Palazzo Chigi. Questo è quanto ha spiegato il ministro del welfare Maurizio Sacconi. È un'area che spesso non è rappresentata ai tavoli della concertazione economico-sociale, sono ultimi degli ultimi che non hanno normalmente, ripeto, organizzazioni che siedono ai nostri tavoli di Palazzo Chigi. Per quest'area, che via via verrà affinata anche attraverso gli intermediari sono importanti per accompagnare all'uso della carta stessa, alla selezione di questa platea, dicevamo dai CAF ai patronati, ma anche la comunità di Sant'Egidio, le Caritas, il banco alimentare, il banco farmaceutico, cioè quelle numerose iniziative che operano proprio a contatto. Pensate a chi gestisce le mense, per esempio, che sono un ambiente già di per sé utile ad identificare questa platea, in coerenza con i criteri di reddito che qui sono compresi. La seconda considerazione è quella relativa alla infrastruttura. La carta, nella sua caratteristica anonima, è un'infrastruttura, si comincia così, come ha detto il ministro Tremonti, e poi potranno essere le tante cose che potranno veicolarsi attraverso la carta, attraverso lo sviluppo anche delle attività di dono, di liberalità, in funzione di un canale la cui affidabilità potrà essere garanzia per chi vorrà donare in questa, ulteriormente, oltre ai donatori di partenza, in questa direzione. Eccoci ritrovati in diretta, ancora una buona serata da Deborah Rosciani. Dobbiamo parlare a questo punto della nostra trasmissione del piano anticrisi varato oggi dalla Commissione Europea. Prima però sentiremo quali sono le indicazioni emerse oggi dalla Confesercenti sulla crisi finanziaria. Le famiglie, altro che arrivare alla terza settimana del mese, secondo un sondaggio condotto dall'organizzazione appunto dei commercianti, non si arriva neanche a metà mese, ma ci sono molti ascoltatori che stanno chiedendo chiarimenti sul funzionamento della social card, se per esempio ci sono limiti di reddito, vincoli di reddito per poterla ottenere. È ovvio che ci sono, perché questo è un sostegno economico rivolto esclusivamente a ceti sociali a profilo di reddito molto contenuto, molto basso. Vi do allora qualche indicazione, ricordandovi che torneremo a parlarne diffusamente, poi ne troverete su tutti i giornali in questi giorni, settimana prossima a Salvadanaio, martedì, quando avremo anche il pacchetto completo anticrisi che verrà varato venerdì dal Consiglio dei Ministri del nostro Paese. Ci sono due tipologie di sociali che avranno diritto a questa carta: agli anziani e le famiglie con bambini piccoli. Spetterà agli anziani, cittadini e residenti italiani fra i 65 e i 69 anni con redditi o pensione fino a 6.000 euro l'anno, oltre i 70 anni la soglia di reddito sale fino a 8.000 euro e poi andrà alle famiglie con figli sotto i 3 anni con un indicatore ISEE di 6.000 euro. Il calcolo del reddito viene infatti effettuato con l'indicatore della situazione economica equivalente, il cosiddetto riccometro, già utilizzato per l'accesso ad altri servizi sociali. Ci sono poi anche altri elementi da considerare: la casa di proprietà, l'auto, anche il conto in banca, ma insomma tutto questo ne parleremo martedì prossimo. Famiglie sempre più in difficoltà, con il portafoglio vuoto già la seconda, terza settimana del mese, e la sola alternativa di tirare la cinghia di fronte ad una crisi che viene vista lunga. Oltre 6 milioni di famiglie italiane infatti arrivano a fatica la terza settimana del mese, più di 2 milioni addirittura non riescono ad andare oltre la metà del mese. Lo dice un sondaggio realizzato dalla Confesercenti. La nostra Francesca Malaguti ha intervistato il presidente Marco Venturi. Parliamo di 14 milioni di famiglie, quindi una enormità per il nostro paese che soprattutto sono pessimisti, quindi pensano che la crisi durerà oltre 2 anni e hanno un'idea di peggioramento della nostra situazione e che quindi hanno delle prospettive negative dell'andamento del nostro paese. Per quello che riguarda il numero di italiani che pensano che le cose non andranno per il meglio e quindi non riusciranno ad arrivare alla fine del mese, stiamo parlando del 34%, quindi della popolazione italiana, cioè oltre un terzo delle famiglie. Per capire il valore di questo dato, riflette la realtà oppure appunto, come dice, è sintomo anche di un certo pessimismo delle famiglie? Davvero loro non riescono ad arrivare col loro reddito alla quarta settimana, chi alla terza? Ma io credo che le due cose si sposino, cioè che c'è un pessimismo chiaramente perché vedono le difficoltà che stanno vivendo e poi ci comunicano una cosa che evidentemente è così. Questo non vuol dire che chi non arriva alla terza settimana o alla quarta non mangia, però vuol dire esprime delle difficoltà molto forti che vivono e quindi si arrangiano per arrivarci. Quali sono i capitoli di spesa che subito risentono di queste difficoltà? Per esempio, una delle cose a cui subito si taglia in qualche modo è l'abbigliamento. Abbiamo registrato su questo un taglio più significativo rispetto ad altri settori. C'è un 4% in più rispetto all'anno scorso, quindi parliamo di più della metà degli italiani, quindi 52%, che dice che sull'abbigliamento taglia, e quindi questo ci dice che questo settore è in forte difficoltà. Questo lo sappiamo già, lo viviamo già, insomma tutte le notizie che ci arrivano dai nostri associati vanno in questa direzione. Adesso ci fermiamo perché ci sono suggerimenti per chi è in viaggio, ma visto che vi ho preannunciato che parleremo del maxi piano anticrisi varato dalla Commissione europea, vi faremo sentire il Presidente della Commissione europea Barroso, il Commissario agli affari economici e monetari Almunia, ma commenteremo il maxi piano con l'editorialista del Sole 24 Ore Carlo Bastasin, che è già collegato telefonicamente con noi. Carlo, buonasera. Buonasera. Eccoci ritrovati. Allora, come abbiamo anticipato per quasi tutto l'inizio della trasmissione, la Commissione europea ha dato oggi, nell'atteso via libera, le sue proposte per affrontare la crisi economica conseguente a quella finanziaria. Si tratta di un pacchetto di stimolo fiscale all'economia in 10 punti, da 200 miliardi di euro, pari all'1,5% del prodotto interno lordo dei 27 paesi dell'Unione europea. E quindi è un ammontare superiore rispetto alla cifra prevista inizialmente. Fino ad oggi, infatti, si era parlato, fino a questa mattina, di un punto di PIL, quindi di una manovra, di un pacchetto da 130 miliardi di euro. È una risposta senza precedenti ad una crisi senza precedenti, ha detto il Presidente della Commissione europea Barroso. Dei 200 miliardi, ha sottolineato, circa 170 saranno messi a disposizione dagli Stati membri. Sentiamo allora l'intervento di Barroso per poi commentarlo con il nostro Carlo Bastasin, editorialista del Sole 24 Ore. Attualmente stiamo attraversando un periodo di crisi eccezionale. Oggi, grazie al nostro piano di rilancio economico, la Commissione è in grado di presentare una risposta altrettanto eccezionale. Occorreva agire in maniera coordinata, ma coordinamento non vuol dire uniformità, perché diversi paesi presentano situazioni economiche molto diverse. Quindi le misure che gli Stati stanno adottando o adotteranno in futuro non devono essere identiche, ma occorre che siano coordinate tra di loro. Il piano europeo di rilancio è un piano da 200 miliardi di euro, pari all'1,5% del PIL europeo. Il massimo dello sforzo verrà dispiegato a inizio 2009 con l'adozione di alcune misure che dureranno fino al 2010. Dei 200 miliardi di euro totali, 170 miliardi, pari all'1,2% del PIL dell'Unione, verranno messi a disposizione dagli Stati membri. 30 miliardi di euro, lo 0,3% del PIL europeo, saranno forniti dall'azione dell'Unione europea. In particolare, 14,4 miliardi arriveranno dal bilancio dell'Unione e 15,6 miliardi dalla Banca europea degli investimenti. In totale, dunque, 200 miliardi di euro, l'1,5% del PIL totale. Voglio sottolineare di nuovo che un'azione europea coordinata può essere molto più efficace rispetto alle singole azioni nazionali e può fare veramente la differenza. Il business as usual, ossia tutto come prima, non è un'opzione perché porterebbe ad un circolo vizioso di recessione. E questa è la lezione degli anni 30. Sappiamo che la situazione è difficile, seria. Non è però con il pessimismo che risolveremo i problemi. Ma se da una parte occorre riconoscere la gravità della situazione, penso che sia nostro compito anche fare capire che possiamo cambiarla se agiamo in modo deciso, coordinato, sia in Europa che nel resto del mondo. Una curiosa, tra l'altro, conferenza stampa del presidente Barroso, iniziata in francese e conclusa in inglese. Carlo Bastasin, ancora buonasera. La prima cosa che balza all'occhio oggi di questa conferenza stampa è stato il continuo, mi viene da dire gioco di parole, ma in realtà non è così, tra coordinamento delle politiche che devono essere adottate in Europa per gestire la crisi, che non vuol dire, ha detto Barroso, uniformità degli interventi da parte dei governi. Forse è stato proprio questa precisazione che magari questa mattina ha convinto un po' di più la Angela Merkel, la cancelliera tedesca, ad essere più disponibile verso, come dire, gli altri paesi europei, data la rigidità che la Germania ha presentato negli ultimi giorni nel promuovere il proprio pacchetto di stimolo fiscale. La Germania ovviamente si è chiamata fuori dagli altri interventi fatti dalle altre economie. Adesso mi viene in mente ovviamente l'ultimo caso, quello del Regno Unito, con la riduzione dell'IVA. La Merkel, parlando con Sarkozy, aveva detto: noi non possiamo fare la stessa cosa. Detto questo, cosa ti suggerisce tutte queste precisazioni fra il coordinamento e l'uniformità degli interventi? Beh, la prima osservazione a commento dell'intervento di Barroso è che, come è stato detto, l'intervento è certamente di grandi dimensioni, perlomeno le dimensioni dichiarate, e questo in qualche modo contrasta con quella che era l'analisi fino ad adesso da parte della Commissione europea delle prospettive economiche conseguenti alla crisi finanziaria. Se uno va a vedere le previsioni di crescita per l'anno prossimo, sono effettivamente di un calo piuttosto marcato del tasso di crescita, ma non ancora di una decrescita, e poi di una solida ripresa nel 2010. Come ha anche detto ieri l'OCSE, no? Che ha parlato di 2 anni di recessione in arrivo. Appunto, l'OCSE invece li rivede abbastanza in negativo queste cifre. Le cifre che dava Barroso fino adesso, che la Commissione ha dato fino ad adesso, sono dello stesso genere di quelle che aveva il governo tedesco, che non gli facevano dire che fossimo davanti a una grande depressione. Quindi, francamente, era per me inatteso, e quindi in questo momento giudico non del tutto coerente l'aumento della dimensione del pacchetto fiscale. La mia sensazione è che o l'analisi è cambiata, o quindi la valutazione sulla crisi è molto peggiorata da parte di Bruxelles. Questo come minimo dovrebbe essere dichiarato ancor prima di annunciare il rimedio alla malattia. Vorrei sapere di che malattia stiamo parlando, e questo non è stato fatto. Oppure siamo in un altro campo di ipotesi, e il campo di ipotesi è quello che riguarda appunto la caratteristica dell'intervento pubblico, compreso quel problema se definirlo coordinamento o armonizzazione o iniziativa unica che lei sollevava. Diciamo che in questo momento mi sembra che l'attrattiva per i governi di enfatizzare il tipo di crisi, io non dico che la crisi non sia rilevante, ma sul tipo di crisi sono invece, ho qualche dubbio di più che sia rilevante il tipo di crisi della domanda, no? La necessità di sostenere con spesa pubblica, riduzione delle tasse, il ciclo dell'economia. Ecco, questo non mi convince. Se le previsioni sono quelle fatte finora, abbiamo una riduzione ciclica. Una riduzione ciclica non è coerente con una dimensione del genere. Un intervento di 1,5 punti del PIL non ha alcun senso, secondo me. Che cosa avrebbe senso allora in questo caso? Cosa avrebbe dovuto fare Barroso? La prima cosa sarebbe chiarire quali sono le reali prospettive. Se le prospettive sono negative, allora bisogna capire da dove viene il problema europeo. Non è detto che il problema europeo sia dello stesso tipo di quello americano, anzi, io sono convinto che noi in questo momento stiamo convenzionalmente parlando di una crisi americana anche in Europa, mentre non è così. La crisi americana nasce da un eccesso di leverage e di posizione debitoria squilibrata da parte delle famiglie. Ora, questo non è il caso, non è il caso in Europa. Le famiglie in Europa non sono particolarmente indebitate. Ora, se lì è indispensabile rilanciare la domanda, in Europa è invece indispensabile fare una cosa diversa, rilanciare la fiducia. E questo in qualche misura, quando Barroso dice non possiamo concederci il pessimismo, è l'unica cosa su cui effettivamente mi ritrovo. Cosa significa rilanciare la fiducia? Rilanciare la fiducia significa rilanciare la prospettiva di redditività degli investimenti, e questo è il problema dell'Europa. Sull'Europa si ha poca fiducia perché l'Europa finora ha dimostrato di saper crescere poco, perché la redditività degli investimenti è diversa, ma intervenire sulla domanda o intervenire sugli investimenti è esattamente l'opposto, e questo non l'ho capito. Va bene, allora magari Barroso nelle prossime ore si spenderà anche in qualche così spiegazione rispetto a questo, però intanto il patto di stabilità e di crescita continua ad esistere, non viene messo tra parentesi. Su questo la Commissione Europea è stata molto chiara, saranno sfruttati i margini di flessibilità che sono ampi previsti dal patto di stabilità, ma non c'è un congelamento delle regole europee. Sentiamo su questo invece il commissario europeo agli affari economici e monetari Almunia. First, why now this plan? Innanzitutto voglio spiegare perché questo piano proprio adesso. Lo scenario economico sta peggiorando, i rischi al ribasso per la crescita che abbiamo identificato nelle previsioni economiche a inizio novembre si sono materializzati e la crisi finanziaria non si è conclusa. Queste sono tre ottime ragioni per presentare questo piano oggi. Dobbiamo rompere il circolo vizioso della recessione, della mancanza di fiducia, della mancanza di domanda e di bassa crescita. È un circolo vizioso che deve essere rotto e che deve essere sostituito da un circolo virtuoso di creazione di domanda, riattivazione del credito e di rafforzamento della nostra economia, creando opportunità per nuovi investimenti e una nuova ripresa. Il patto di stabilità e di crescita continua ad esistere e non viene messo tra parentesi. Intendo che, come sostiene il patto, il deficit sopra il 3% faranno scattare le procedure di deficit eccessivo, a meno che questi sforamenti non siano piccoli, ossia di pochissimi decimali e non di molti decimali, e a meno che non siano temporanei. E temporanei significa un anno, non molti anni. Quindi, se lo sforamento è piccolo e temporaneo, il patto dice che una procedura di deficit eccessivo non è necessaria. In tutti gli altri casi la procedura è necessaria per correggere il deficit eccessivo, e in questo caso useremo la flessibilità introdotta dal nuovo patto nel 2005. Ci rimane un minuto di tempo ancora, Carlo Bastasin. È coerente? Sì, so che sono andata sopra Almunia, il tecnico si è preso un accidente, ma per ottimizzare gli ultimi secondi che ci rimangono e che sto perdendo così, è coerente quanto dice Almunia con un piano di questo tipo, cioè il fatto di non voler congelare le regole europee e di varare contemporaneamente un piano di queste dimensioni? Ma in questo caso sì, diciamo, i margini di flessibilità offerti dal patto di stabilità non sono enormi, si parla di mezzo punto di PIL. Quello che Almunia implicitamente dice, riaffermando l'esistenza e i vincoli del patto di stabilità, è che solo alcuni paesi potranno effettivamente permettersi un rilancio ampio della domanda interna. Per questo, e veniamo al punto iniziale, non era possibile una vera armonizzazione, una vera iniziativa comune, ma era necessario un coordinamento tra iniziative diverse. Questo creerà dei problemi comunque di come si dice in tecnica di free riding, cioè qualcuno ne beneficerà più di quanto pagherà il costo dei benefici. Però insomma l'altro aspetto rilevante giustifica questa cosa, cioè Almunia ha detto la situazione sta peggiorando rispetto a quello che avevamo previsto a novembre. E forse peggiorerà ancora, chi lo sa. Adesso non vogliamo come al solito fare i gufi perché gli ascoltatori si arrabbiano, però se i governi poi si rincorrono negli interventi in maniera così veloce e anche gli organismi internazionali continuano a rivedere di settimana in settimana a ribasso le stime di crescita, evidentemente forse ancora non abbiamo visto tutto. Intanto il piano anticrisi della Commissione Europea, su questo piano si dovrà pronunciare prima l'Ecofin martedì prossimo, poi fra due settimane i capi di Stato e di Governo, per cui ne torneremo a parlare. Per ora è tutto, grazie a Carlo Bastasin. Focus Economia torna domani sera alle 17, buona serata a tutti.